Compare giornalmente, credo da un mesetto o due, sulla cronaca di Milano del quotidiano Corriere della Sera, una, chiamiamola, rubrichetta, credo, che si chiama I numeri di ieri. Ora, questa rubrica, a cura di Carlo Torriani, propone ogni giorno una serie di cifre inerenti a fatti, avvenimenti, entità, successe nella città di Milano. Non capivo molto bene, allora ho voluto osservarla per alcuni giorni con un minimo di ordine sistematico, per quanto è possibile, dati i gusti e le soggettività a cui giustamente si ha diritto. Allora, questa rubrichetta, che in apparenza è una rubrichetta di scioccherie, tanto per intenderci sullo stile di quella peraltro adoratissima rubrica della settimana linguistica che si chiama Forse non tutti sanno che, dove le notizie sono fra le più curiose e quindi le più irrilevanti e inutili, insomma mi sembrava una rubrica di pura evasione. Perché? Perché dai numeri, ma li dà in maniera assolutamente decontestualizzata e in pillole, ovvero mette insieme per esempio il numero di Coca-Cola distribuite con i veicoli entrati a Milano dall'autostrada di Torino piuttosto che da quella di Genova, con il numero dei borseggi, con i furti delle attrezzature avvenute, con i quintali di lamponi distribuiti piuttosto che con il numero di confezioni di Bella Donna, per cui uno si ritrova che in una giornata si ritrova, che ne so, prendiamo una giornata tipo il 16 di aprile, c'erano i borseggi, questo era l'ordine, i furti 37, furti di appartamenti 37, rapine 7, furti di autovetture 66, auto recuperate 66, furti a bordo di auto 46, persone rimpatriate 2, persone arrestate 79, scippi 6, chiamate al 113 2604, persone morte 44, persone nate 42, cavalli in gara a San Siro, perché fino a qui si pensava di avere almeno dei dati sulla mortalità, natalità e il livello, diciamo così, di allarme o delinquenza, ma poi arrivano i cavalli in gara a San Siro 78, film di prima visione 28, film a luci rosse 28. Un altro giorno, per esempio, il 21 di aprile c'erano le rapine, i borseggi, furti di appartamenti, furti di autovetture, che sono più o meno sempre presenti, anche se non irregolarissimamente, le persone nate e le persone morte, anche queste sempre presenti, ma di cui dirò più tardi. Bottigliette di Coca-Cola distribuite, Campari soda distribuiti, e devo dire, sì, il Campari soda perde rispetto alla Coca-Cola, ebbene, questa forse è un'informazione. Confezione di latte, veicoli entrati a Milano dalle varie autostrade, usciti da Milano. A volte ci si trovano, che ne so, gli aerei arrivati in ritardo, quelli partiti in ritardo, talora il numero di quintali di zucchine o di fragole, talora i lamponi, talora le nespole, i ravanelli o i basilico in quintali, pere. Quindi ci sono, diciamo, dei dati più o meno fissi, anche se sono sempre messi in una maniera diversa, nel senso che talora le persone nate e le persone morte sono in alto, talora metà, talora sono in fondo, e poi comunque con una certa regolarità si trovano, nel senso che può saltare un giorno ma si ritrova il giorno dopo, i borseggi, le rapine, i furti negli appartamenti, i furti in autovetture. E se uno volesse farsi una serie storica e capire com'è l'andamento di questa città da questo punto di vista un po', diciamo, poliziesco, almeno lì l'avrebbe. Ma le altre notizie, che significato ha? Quanti quintali di basilico venduto ci sono stati? Quanto ne sappiamo noi di quanto è la norma del basilico venduto? Abbiamo una serie storica? No, una notizia assolutamente priva di senso, una pillola di notizia, un delirio di notiziola. E quanti milanesi in Mino Crociera c'erano a Genova Bastia il giorno 18 di aprile? Sembra proprio volutamente voler far ridere e, sotto la forma dell'informare, invece disinformare con leggerezza. Ma questo non basta. Prima di tutto perché chi si occupa di comunicazione sa che un eccesso di informazioni come questi, in genere 10-15 serie di numeri peraltro così disparati, non riesce ad informare, bensì ottiene esattamente l'effetto contrario, cioè le informazioni disparate e in eccesso si elidono e quindi danno luogo a un contesto sfuggente e assolutamente irrilevante che appunto non comunica. Avevo anche pensato che fosse un tentativo imitato dal settimanale Cuore, che forse vi ricorderete, ci ricordiamo, da quante ore ci manca un personaggio caro, amato, importante, da quante ore invece ci tocca sopportare in genere un altro personaggio molto meno amato e fastidioso, e forse anche un po' stile a certe idee, diciamo, di sinistra. Insomma, mi sembrava una rubrica di alleggerimento, ma non è così. Non sembra proprio essere così. Beh, prima di tutto, per due cose. Quando si vuole fare un minimo di formazione, anche da questo angolo visuale così ridotto, si riesce. Il 26 di aprile, per esempio, giorno successivo alla grande manifestazione del 25, i dati riportati da Carlo Toriani erano assolutamente omogenei. È vero che il giorno prima era un giorno festivo, quindi sicuramente le informazioni sulle zucchine vendute e sui lamponi non erano arrivate, ma forse poteva trovare il numero di chiamate di radiotaxi piuttosto che altre bazzecole che ci sono in queste cose, ma no, i dati sono tutti omogenei e danno in qualche modo uno spaccato di un fatto, ovvero il numero dei manifestanti in Piazza Duomo, i poliziotti impiegati per la manifestazione, gli elicotteri impiegati per la manifestazione, i vigili urbani impiegati per la manifestazione, i treni straordinari in arrivo per la manifestazione, che tanto perché lo sappiate erano 5, le persone trasportate in treno per la manifestazione, le linee ATM deviate provvisoriamente, le chiamate radiotaxi, i furti delle autovetture, le auto recuperate, che quindi sono quelle notizie di sfondo che ci sono sempre, ma che contestualizzate nella manifestazione fanno notare che non c'era da allarmarsi perché c'erano centinaia di migliaia di persone in più, le rapine che quel giorno, guarda caso, sono state numero zero, i furti negli appartamenti, i treni intercity partiti in ritardo, che per caso erano anche quelli zero. Quindi questa serie di informazioni in qualche modo raccolte intorno all'evento centrale di quella giornata riescono comunque a mettere dei paletti, a dare delle misure che fanno crescere e illuminano ulteriormente un fenomeno, un evento, una manifestazione a cui avendo partecipato già si sa, ma insomma comunque danno delle misure che implementano l'informazione. E quindi il fatto che altre volte non lo sia così, questo elenco di numeretti, vuol dire che la cosa non è casuale, vuol dire che quando se si riesce a farlo una volta si potrebbe farlo altre volte, prendendo per esempio degli spaccati di Vita Cittadina e dando numeri su quegli spaccati, in maniera appunto da creare un contesto leggibile per il lettore. Ma quello che mi fa pensare soprattutto che non sia casuale e leggera questa rubrica, anche se magari non lo è in maniera involontaria, ma le ideologie, come sappiamo, sono ben nascoste nelle nostre pieghe, è la rubrichetta del 20 di aprile. Ho fatto notare prima che sempre o quasi sempre viene data informazione delle persone nate e delle persone morte. Bene, quel giorno la rubrica comincia con nati 35, morti 32, aborti 63. Non sono più persone nate, persone morte, perché sennò come si poteva metterli in fila con gli aborti, che essendo fra l'altro il doppio, per caso quel giorno, non so come sia gli altri giorni perché per fortuna non è più comparso, ma non è casuale la scelta, non è casuale la scelta di fornire un'informazione così privata, e lo dico io che sono una donna e posso dirlo più di altri, come quello del numero degli aborti, legge peraltro garantita da questo Stato. Perché non dicono i suicidi, i divorzi, i matrimoni? Mai, ma gli aborti sì, messi in fila. E poi non c'è caso, e non voglio pensare che sia cattivo Carlo Toriani, ma fra le fonti che vengono citate in fondo, che sono diverse disparate, c'è la Sogemi, ci sono i vigili urbani, ci sono i radiotaxi, c'è la questura, c'è l'AMSA, ci sono le società autostrade, c'è il comune, c'è l'ATM a seconda. Queste fonti, beh, non sono mica in ordine alfabetico. La prima sempre è la Questura di Milano.